Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, eccoci ad un nuovo appuntamento del lunedì per parlare qui a Radio 24 di trasporti e logistica. Anche oggi partiamo con il punto sulle conseguenze per il comparto innescate dall'emergenza coronavirus. Uno dei fronti più delicati chiaramente è quello dei porti, dove da giorni sono stati intensificati i controlli sulla base di specifici protocolli, quindi attenzione massima sul fronte della prevenzione, ma anche rispetto ad un allarmismo generalizzato che può indurre fenomeni incontrollabili anche per quanto riguarda la movimentazione e il trasporto delle merci. È in linea con noi Daniele Rossi, presidente di Assoporti. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, cosa sta succedendo nei nostri scali per effetto di questa emergenza sanitaria? Guardi, quello che sta succedendo è un eccesso di panico, e questo è esattamente quello che noi dobbiamo evitare, perché non ci sono le condizioni che giustificano questo scenario. I porti italiani sono sicuri, sono controllati, i protocolli di sicurezza che sono stati attivati dalle capitanerie di porto e dal Ministero della Salute sono efficaci, peraltro sono strutture già esistenti. L'USMA fa il sistema di controllo sanitario nei porti, è una struttura esistente nei porti che è stata potenziata in questo periodo. Le navi, quando arrivano all'ormeggio, ottengono l'autorizzazione all'ormeggio e quindi allo sbarco dalla capitaneria di porto soltanto dopo che l'USMAF ha rilasciato il proprio benestare, quindi dopo che i primi controlli sommari sono stati fatti. Dopodiché, se ci sono situazioni critiche, vengono analizzate. Se non ci sono, iniziano le operazioni di sbarco. Naturalmente sto parlando di navi mercantili, non di navi da crociera, con mezzi meccanici, con gru, con carrelli. Non c'è contatto fisico fra i lavoratori a bordo della nave e quelli nei terminal portuali. I marinai e i lavoratori a bordo delle navi non sono autorizzati allo sbarco, peraltro sono tutte persone di nazionalità le più disparate, insomma, che avrebbero bisogno di visti per scendere, per entrare in territorio nazionale. Quindi, insomma, non ci sono possibilità che scendano, che scendano a terra. Ecco, tutto questo per dire che il sistema è ragionevolmente in sicurezza. Naturalmente bisogna prestare una grande attenzione, ma non ci sono le motivazioni per generare il panico. Più in generale, da più parti si manifestano preoccupazioni sull'andamento dei traffici nei nostri porti per effetto della contrazione dell'economia cinese. Lei come la vede? Guardi, è una situazione destinata a risolversi in tempi ragionevolmente contenuti, quindi insomma è un'emergenza sanitaria che tutte le analisi, tutte le prospettive dicono destinata a risolversi nel giro di 6 mesi, quindi a livello di economia globale io credo che la Cina saprà reagire in modo adeguato, sopperirà la mancanza di esportazioni con una iniezione di capitali nel sistema interno per aumentare il PIL, quindi investirà di più sulle costruzioni, spingerà su nuovi progetti, insomma cercherà di riequilibrare i conti. C'è il tempo, su base annuale c'è il tempo per sistemare le cose. Di certo non sarà indolore, questo è fuori di dubbio, però non mi pare che siamo di fronte ad uno scenario drammatico. Daniele Rossi, presidente di Assoporti, grazie e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Voltiamo pagina. Lo scorso gennaio, sull'asse del Brennero, sono transitati circa 4.300 TIR in meno rispetto a 12 mesi prima. È l'effetto dell'estensione dei divieti settoriali, cioè per determinati tipi di merci, scattata all'inizio dell'anno. Contemporaneamente è aumentato il numero dei mezzi pesanti che hanno viaggiato via ferrovia. Sono stati 13.187, oltre 3.000 in più rispetto al gennaio 2019. I dati sono stati resi noti da un quotidiano tirolese. Resta il fatto che la RAF di divieti e limitazioni al transito dei tir imposti unilateralmente dall'Austria sull'asse del Brennero, ufficialmente per ragioni ambientali, penalizza la nostra economia, visto che lungo questa autostrada transita una fetta consistente dell'export italiano verso il centro e il nord Europa. Del tema ha parlato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il question time al Senato, lo ascoltiamo. Ricordo che il 2 dicembre 2019 la ministra De Micheli ha incontrato la commissaria europea dei trasporti consegnandole una nota formale per rappresentare la difficile situazione in cui versano gli operatori economici italiani in conseguenza delle decisioni assunte dal governo austriaco. Nell'occasione è stato ribadito che la Commissione europea dovrebbe pronunciarsi formalmente sulle misure restrittive austriache, in quanto contrarie ai principi cardine dell'Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché in considerazione degli effetti distorsivi della concorrenza, con richiesta di valutare ogni possibile ulteriore azione qualora le stesse autorità intendessero comunque proseguire nei propri intenti. In attesa di questo pronunciamento, la ministra De Micheli ha in programma a breve un nuovo incontro con la commissaria Dina Vallean e in ogni caso io stesso mi farò promotore di un incontro col premier austriaco per cercare di affrontare con dialogo costruttivo, secondo approccio costruttivo, questo problema. Conte accennava all'incontro tra la ministra De Micheli e la commissaria europea ai trasporti Vallean. Questo incontro si svolgerà venerdì prossimo al Brennero, al centro del bilaterale appunto i divieti imposti dal Tirolo, previsto anche un sopralluogo al cantiere del nuovo tunnel di base in costruzione. Ora in Liguria, dove da mesi lo stato in alcuni tratti precario della rete autostradale condiziona pesantemente la mobilità delle persone, come il trasporto delle merci all'interno di uno snodo cruciale del sistema logistico nazionale. Pensiamo, per esempio, ai collegamenti con i porti di Genova e Savona. Da qualche giorno, sulla base delle indicazioni degli ispettori del Ministero delle Infrastrutture, per ragioni di sicurezza è scattato il divieto al transito dei trasporti eccezionali su 5 viadotti. 4 sono sulla 12, Genova-Sestri-Levante, parliamo dei viadotti Campodonico, Sori e Recco e dello svincolo di Chiavari. 1 è sulla 10, Genova-Savona, si tratta del viadotto Voltre. Per questo tipo di carichi significa il transito forzato su itinerari alternativi, spesso molto lunghi e tortuosi, e quindi un netto allungamento dei tempi di percorrenza e un aggravio di costi. Dagli autotrasportatori agli spedizionieri, passando per le varie categorie produttive, protestano un po' tutti. Non si discute certo la necessità di intervenire sulle infrastrutture per garantire la massima sicurezza, ma piuttosto per il mancato preavviso di questi divieti. Giuseppe Tagnocchetti è il coordinatore ligure di Trasporto Unito. La pianificazione di autostrade di questi tempi non permette alle nostre aziende di lavorare correttamente, perdita di produttività enorme per le nostre imprese, e questo non è più accettabile. Quindi abbiamo incontrato Autostrade dice che in questo periodo, oltre alla normale manutenzione di interventi sulle infrastrutture che stanno cercando di svolgere e che per noi sono importantissimi, ci sono anche molti controlli da parte ministeriale, questo gli rende in difficoltà, però non può ricadere su tutto l'indotto per centinaia di migliaia e milioni di euro di perdita di capacità di consegna, una produzione, un'industria che è in difficoltà, perché i trasporti eccezionali spesso trasportano elementi che sono necessari per il ciclo industriale. Noi chiediamo che qualcuno intervenga intanto per permetterci di proseguire la nostra attività, perché fare un trasporto in 2 giorni per noi è diseconomico, non possiamo fare imprese in questo modo. Sicuramente i pedaggi gratuiti sarebbero intanto un gesto onesto da parte di Autostrade, riconoscendo i danni che sta creando al nostro indotto, e un primo passo di ristoro degli extra costi. Lunedì scorso vi avevamo dato conto di un'operazione dei carabinieri che a Bari avevano sgominato una banda specializzata nelle rapine ai danni dei mezzi pesanti, un fenomeno che nonostante operazioni e arresti continua a destare grande allarme in tutta la Puglia. Nei giorni scorsi un nuovo assalto, questa volta nei pressi dello stadio di Bari. I banditi hanno preso di mira un tir carico di confezioni di tonno, sotto la minaccia di un fucile hanno costretto l'autista a scendere, alla guida del mezzo è salito un componente del comando che è stato intercettato da una pattuglia della polizia metropolitana. Per guadagnarsi la fuga i rapinatori non hanno esitato a sparare contro gli agenti, nessun ferito, il mezzo è stato successivamente recuperato a Modugno. Da oggi e fino a domenica prossima su strade ed autostrade raffica di controlli a tir, pullman e bus, è infatti la settimana di Track and Bus, la campagna promossa da Tispol e il network delle polizie stradali europee. Una particolare attenzione riguarderà lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità e di tutte le prescrizioni sull'autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Termina qui oggi hashtag Autotrasporti. Con questo programma noi ci risentiamo lunedì alle 13.45. Vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda alle 13.15 con Container. Sapete, un approfondimento su questi temi. Ora la linea passa al GR da Andrea Ferro. Una buona giornata. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.